Allora, siccome penso di trovarmi di fronte a qualche allevatore, ma anche più che altro a cittadini, ho cercato dentro di me di capire che cosa volevano sapere sul latte, cosa vuol dire produrre latte, anche perché sembra un po' strano negli anni 2000 che ci siano delle persone ancora che decidono di fare questo lavoro, no? La cosa bella è che vedendo anche qui a questa manifestazione in cui quest'anno sono stati invitati gli agricoltori e vedere finalmente che i giovani continuano, no? E se voi girate nei banchetti dei produttori vedete che veramente ci sono dei ragazzi. E questa è la cosa più importante per me perché quando uno arriva a una certa età si rende conto che oltre al lavoro che ha fatto, spesse volte anche un lavoro manuale, la cosa più bella è vedere che certe tradizioni e certe passioni possono essere tramandate alle generazioni più giovani, no? Allora, io ho un'esperienza senz'altro diversa da quella di Giuseppe perché sono nata in città e ho studiato ad Agraria e avevo però comunque una passione per la campagna perché i miei nonni da parte materna avevano un fondo a Bisentrate, Pozzuola Martesana. Per cui sognavo di lasciare la città e andare a vivere in campagna. Poi l'incontro con Dario ad Agraria ci ha fatto venire questo sogno di mettere su questa stalla di vacche da latte. Mio papà, a combinazione, aveva questa piccola cascina e così siamo partiti. E i primi anni sono stati proprio duri, soprattutto perché era difficile farsi accettare come studenti dal mondo agricolo, perché purtroppo il mondo degli agricoltori è un mondo molto chiuso. E quindi eravamo sempre messi alla prova in tutto quello che facevamo, no? Perché eravamo guardati come studenti. Però pian piano ci siamo fatti, insomma, capire e secondo me abbiamo anche portato nel territorio qualche innovazione. Io so, per esempio, parlo la semina dell'oietto, questa cultura che poi è insilata, vabbè, siamo stati tra i primi a portarla nella Abbiatense. Io sono molto contenta della scelta che ho fatto, soprattutto perché come donna mi sono resa conto che lavorare la terra, allevare le vacche, ti dà la possibilità di avere con la tua famiglia un rapporto che in città purtroppo è difficile avere, quindi riuscire a allevare dei figli in un ambiente sano, con dei tempi di lavoro che si conciliano anche con quelli dell'allevamento. Io sono riuscita a tirarmeli sempre dietro durante il lavoro, a non prendere mai né la nonna né la babysitter. Ci portavamo Simone nello zainetto quando andavamo a lavorare il fieno nei campi e forse per questo è venuto su con le ruote nella testa. Perché la sua prima parola è stata brum brum. E comunque ho dedicato gran parte, diciamo, dei primi 20 anni con passione all'allevamento della vacca da latte, fino a quando ho capito che certe scelte che avevo fatto, che certe volte mi dicevano: ma caspita, è sempre lo stesso lavoro, è rutinario, anche di fronte ai miei figli mi dicono: ma cosa fai? Ti alzi al mattino e vai a mungere le vacche. Mi sono resa conto, soprattutto adesso, in questo momento, che fare agricoltura vuol dire anche mantenere il territorio, che secondo me è la cosa più importante. In un momento in cui, come avete detto voi, nelle vostre locandine, siamo di fronte a delle vere e proprie devastazioni territoriali, soprattutto qua da noi, intorno a Milano. E quindi sono convinta che l'azienda zootecnica è fondamentale per preservare un certo tipo di ambiente e quindi per preservare la fertilità del terreno, per far conoscere ai ragazzi, ai bambini che esistono le vacche, che il latte è un prodotto fondamentale, che anche nel 2000 con il latte si fanno un sacco di cose, no? E vabbè, poi quindi diciamo che in questa fase della mia vita mi sono resa conto che era importante anche occuparsi di cose un po' al di fuori della cascina e quindi mi sono impegnata, per esempio, nell'associazione allevatori insieme a lui. E poi ho conosciuto un gruppo di donne molto, significativo secondo me, che è l'Associazione di Donne in Campo, dove, avendo io vissuto un'esperienza lavorativa in un ambiente molto maschile, perché allevare vacche è una prerogativa degli uomini più che altro, e trovandomi sempre io come donna un po' spiazzata e un po' isolata, invece in realtà in questo gruppo di donne imprenditrici, che però a me piace dire contadine, ho conosciuto veramente altre donne che facevano il mio stesso lavoro in tutte le regioni d'Italia. E questo mi ha molto gratificato, e tra l'altro adesso insieme a loro stiamo portando avanti proprio dei progetti di riportare anche le tradizioni, la cultura contadina in giro e farla conoscere ai giovani. E basta, poi già che sono qui vi parlo un attimo di questo progetto, che proprio è partito un po' in difesa del territorio. Io la mia azienda agricola è nel Parco Sud, al confine del Parco Ticino, e, a Baggio, a Bosco in Città, l'anno scorso era partito questo progetto di risemina di fiori che sono quasi scomparsi, i papaveri un po' meno, i fiordalisi, tanti ragazzi forse non li conoscono più, e hanno provato a riseminarli nei campi di orzo con l'intento di ricreare paesaggi agricoli che affezionano i cittadini alla campagna, e per riproporre un po' anche il discorso della perdita delle biodiversità nelle campagne. E io ho pensato di allargare, diciamo, questo progetto a delle aziende agricole che hanno aderito, e per cercare di sensibilizzare gli amministratori e i cittadini sul problema proprio del consumo di suolo agricolo. E quindi abbiamo seminato, hanno aderito una ventina di aziende nelle campagne quest'autunno di orzo e di frumento, questi fiori, e speriamo che in primavera si possano vedere. Abbiamo scelto i terreni più vicini alle strade proprio perché si vedano, e poi verrà fatta un po' una campagna di sensibilizzazione. Poi abbiamo oggi aderito a questa degustazione, mi piace l'idea che sia degustazione letteraria, anche se noi non presentiamo niente, perché penso che comunque il piacere del cibo sia un piacere comune a tutti. Io spero di aver fatto dei formaggi mangiabili, perché sono molto artigianali, e poi li gusteremo insieme.